sul legno del ponte, portando cesti di frutta matura. Parte una musica dolce e già cambia l'inquadratura. E c'è una vela che viene dal mare, non si sa bene a portare che, fin quando nuvole in dissolvenza non la nascondono. O sono nuvole con altre vele che si confondono. E intanto passano i giorni e non è proprio mai finita. E intanto passano i giorni che sono i titoli della vita. E allora ai, ai, ai, Calypso, Calypso, quanti pesci pescati nel mar, quante donne pescate in un bar, dove i tatuaggi ti bruciano meno se li appoggi sul fresco di un seno e una voce canta, canta ai, ai, ai, Calypso, Calypso. E c'è il dettaglio di un uomo seduto, la pelle nera che sembra velluto, due occhi neri che sembrano carbone, disegna cerchi con rum sul bancone, pensa che si può morire di Calypso. Calypso, Calypso. A piedi nudi sul legno del ponte, primo piano di un particolare, che la frutta richiama le api e che una spina in un piede fa male. E quante vele abbiamo visto partire e ritornare, nessuna mai, perché da piccoli in riva al mare i bambini corrono, ma poi col tempo si fanno furbi e di giorno dormono. Intanto passano i giorni e sono giorni tutti uguali, bianchi ed affilati come i denti degli squali. E allora ai, ai, ai,